24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Io l'immondizia non la volevo in nessuna maniera. L'immondizia tossica, che l'atomica è tossica. E quando io ho capito che non c'era più niente da fare, mi sono pentito. Perché io sapevo, come glielo ho detto, che questi facevano morire generazioni intere. Ma questi stanno in coppia di posto tra la munnezza, ste case. Qui ci sta qualche parte di questa roba radioattiva. Ma come cazzo l'hanno fatto costruire questa gente qui? Provenienti ci hanno pure un pozzo, perché lì acquedotto non ce n'è, non ci arriva, si fanno un bagno, e capace bevono pure. Dal sud della Latina a Borgomontello ci a volare, tutta la zona costiera, tutta la strada Domiziana, Castel Volturno, Mondragone, tutti quei laghetti che noi scavavamo. E poi siamo andati a Casale, fino a sotto Aversa, De Verulo, Marcianisa, più ci stavano cassette di fanghi nucleari, di centrale nucleare a Germania, Austria, Svizzera, venivano riciclate attraverso una società di Milano che aveva una grossa discarica a Milano, che passava attraverso l'Appidui, e c'era anche un personaggio abbastanza noto. 470 camion giravano con la bulla di accompagnamento, tutta d'arte fatta apposta, però andavano a scaricare in queste buche. Andare in discarica significava che ogni fusto di quella veniva 2 milioni per distruggerlo, mentre dandolo ai clan costava 200.000 lire, sotto gli occhi di tutti. I politici stavano tutti a mensile, per dire, noi pagavamo il castruzzo, caricavamo la sabbia del mare, lì fuori c'era la finanza, i carabinieri si pigliavano 10.000 lire a cani, autotreno, per passare normali. Ma io penso che il nucleare è segretato ancora, non vogliono allarmare l'opinione pubblica. Lo sai che potrebbe succedere a tirare quella roba fuori? Una bomba atomica. E come faranno le bonifiche? Che tolgono l'acqua da sottoterra? Ma che faranno? Come Stato, come politica, nemmeno avrebbe voluto disegretarlo, solo che c'è stata impressione del popolo, e un patriciete che ne ha fatta una lotta, i fede. Il pentito Carmine Schiavone parla di Terra del Fuoco, ma soprattutto di una cosa ancora più grave, dell'inquinamento del territorio. 57 comuni per 800.000 metri quadri. Cose oramai verificate, non ci sono più dubbi. Presidente Caldoro, buongiorno. Ma lei ha un'idea di quanto il territorio sia oramai compromesso? Ma intanto buongiorno direttore, buongiorno a voi. La situazione descrive circa 30 anni di sversamenti illegali in un pezzo del territorio, certo. Un pezzo del territorio ormai già da qualche anno perimetrato e verificato dall'autorità giudiziaria, dalle varie indagini fatte prevalentemente dalle forze investigative con perizie geologiche, in alcuni casi molto molto pesanti, ecco, e fondate, Presidente. Che riguardano un pezzo del territorio che oggi, diciamo, la parte più inquinata, quella delle cosiddette discariche controllate dalla Camorra. È evidente che la descrizione del pentito racconta di azioni criminali di quella Ma banda. Lui dice tutti i politici, tutti a mensile. Cioè... Questo tenga presente che vale negli anni in cui il pentito aveva questo ruolo di descrizione del contesto territoriale che era connivente, dove non c'era controllo, dove c'erano, cioè, quali sistemi anni? Autorizzativi. Quali anni? Ma dall'indagine della Procura Antimafia sono gli anni che vanno all'inizio degli anni 2000, quindi vanno da 20 anni prima, diciamo fino agli anni 70, dagli anni 80-90 fino agli anni 2000. Ecco, ma com'è possibile che dichiarazioni di questa gravità che sono state fatte nel 97 escono solo oggi? Beh, questo è una questione di carattere informativo, non che non ci siano, quindi bisogna chiarire intanto, né sono segretate né sono segrete, perché sono frutto di indagini lunghissime. E che spiegazione si dà a lei? Ma no, solo a me personalmente mi impressiona che escano solo adesso. Questo solo giornalistico, perché sì. Il frutto di tutte quelle dichiarazioni sono lunghissime indagini. Io tenga presente che quando, per esempio, mi sono insediato nel 2010, ho avuto una parte della conclusione di alcune indagini geologiche proprio nelle aree più inquinate, con indagini che chiaramente sono durate alcuni anni, molto lunghe, certo. Di verifiche su vari posti. Quindi quelle dichiarazioni, quelle ed altre, perché non ci sono solo le dichiarazioni, noi abbiamo preso, sono state questo. Dall'autorità giudiziaria negli anni 90 e negli anni 2000 accertati, in gran parte di queste hanno prodotto anche dei processi e delle condanne, in alcuni casi hanno prodotto, come è ben noto ormai da anni, la perimetrazione di quelle aree, questo l'abbiamo detto. I controlli su raggiera fino a 1000 volte volte di più gli ettari colpiti. Ecco, Presidente. E quindi da questo punto di vista l'azione è ben meno conosciuta, perché non è stata, credo, neanche forse opportunamente dalla stampa, vabbè, non se ne è parlato poco, ecco. Pubblica. Però Presidente, direttore, è chiaro che è evidente la situazione di particolare gravità in quell'area, quindi questo non vuol dire che la situazione non sia di assoluta come possiamo dire, attenzione, sì, ed però, emergenza su un pezzo del territorio campano, questo mi pare abbastanza chiaro. Presidente, per quanto ne sa lei, tossico vuol dire anche nucleare? Allo Stato non abbiamo dalle indagini fatte rilievi specifici di scorie nucleari, sicuramente dalle indagini geologiche fatte soprattutto sulle aree maggiormente colpite, che sono 2 ettari in particolare. Schiavone lo dice? Sì, sì, no, ma certo, non c'è dubbio, lo dice, ma non abbiamo oggi riscontri diretti, anche se lei sa che i controlli sulla qualità del territorio e soprattutto sui nuovi sistemi di telerilevamento. Sì, sì, questi con i droni addirittura, sì. Negli ultimi anni, sì, sì, lo so bene. Stanno verificando anche questo con tutti i sistemi di tecnologie moderne, perché sennò non è facile, le scorie nucleari sono particolarmente piccole, quindi è difficile in un'area grande pensare di trovarle facilmente. Senta, schiamo... bisogna fare delle tecnologie particolari, però non c'è dubbio che quello che già c'è è di accertato, di rifiuto tossico e nocivo, produce danni o potenziali danni alle falde acquifere veramente molto gravi. Senta, adesso arriveremo all'acqua. Ecco, Schiavone dice che tutto questo si sa, si sapeva, ma non si è detto per non spaventare le persone. È così? No, guardi, intanto parliamo del passato, quindi non sì, sono in grado, vabbè, di dire le autorità allora che cosa hanno deciso di fare. Io guardo le carte, e le carte gran parte... Lei viveva a Napoli, vive a Napoli, quindi sì, magari... Sì, ma le dico con franchezza, io guardo le carte dei processi, tutto quello che viene descritto è tutto nei processi. Sì. Cioè sono tutte carte pubbliche, anche questa visione... No, ma il fatto che siano... scusi, non voglio interromperla. Sì, no, nel senso che se lei mi dice se non hanno avuto una divulgazione sì, pubblica... È colpa dei giornali che non avevano interesse a farlo. No, non è colpa dei giornali, probabilmente non hanno ritenuto la notizia o l'hanno trattata probabilmente superficialmente o parzialmente. La consapevolezza civica del danno è anche una volontà di informarsi. Tenga presente che io ho voluto fare una scelta proprio contraria. Sì. Io sono contrario a ogni chiusura di dati, quindi io penso che comunque i dati debbano essere aperti. No, naturalmente, mi sembra allora un po' di ritardo. Allora io ho ritenuto che fosse più utile pubblicarli, cioè di tenere tutto in rete, e, sia la parte diciamo delle aree cosiddette a bonifica, quindi le aree perimetrate, verificate in quanto inquinate, e sono 49 censite. 57 mi sembra, 57 no, sono 49 censite quelle di particolare gravità nella regione Campania, sì, che sono censite, perimetrate, sono aree non particolarmente estese, ma sono comunque 49. Vabbè, insomma, vorrei non vivere lì. No, perché abbiamo voluto fare il piano bonifiche da subito, quindi abbiamo voluto subito rilevarle. Ed sono in rete, noi da tempo mettiamo d'accordo, in rete. Questo l'ha detto, tutto. Presidente, ma ci sono, intanto ricordo il numero verde 800 24 00 24 per chi vuole telefonare, numero sms 349 238 6666. Dicevo, Presidente, ci sono riscontri definitivi sulla veridicità di queste denunce, sia di interramento sia della corruzione? Ma non c'è dubbio, intanto continuo a dire, e consiglio di leggere tutte le chiusure processuali, lì ci sono, non, e poi c'è tutte le perizie conseguenti, sì, sì, le perizie l'abbiamo detto, non è, sì. Le perizie chiaramente non le fa solo l'autorità giudiziaria, le fanno gli organismi di controllo, certo, perché naturale. Sono anni che vengono controllate quelle aree, tanto è vero che un'area ha attualmente un commissario di governo per le bonifiche, già da circa 5 anni, che ha perimetrato le aree, quindi sono già i lavori in quelle aree più inquinate, che sono aree ben conosciute. Quello di cui non si riesce, chiaramente non possiamo mettere nessuno la mano sul fuoco, che ci siano altri casi, non di sversamenti di grandi quantità, ma eventuali interramenti di fusti, per esempio di singoli fusti o di singoli trasferimenti di rifiuti tossici e nocivi. Allo Stato il telerilevamento è abbastanza preciso, sicuramente posso dire che la parte che riguarda il maggior impatto e di maggior inquinamento è un'area ben delimitata. Presidente, questo l'abbiamo già detto, che l'area è delimitata. Io le voglio dire questo, Presidente, Schiavone parla con precisione della corruzione. Mi dice qualcosa a proposito di questo? Ma io in quegli anni sicuramente c'è stata una connivenza, è evidente, c'è stato un mix di 2 fattori, del controllo della camorra sul territorio, perché senza la camorra e il controllo del territorio in quegli anni non era possibile portare rifiuti tossici e nocivi di tutta Italia in maniera illegale, questo è evidente, la colpa e la responsabilità è della presenza della, è fortissima della camorra in quell'area. Appunto. La seconda è stata il popolo sta reagendo in modo molto forte con manifestazioni significative a questa aggressione della camorra sul territorio. Io posso soltanto consigliare una buona lettura questa mattina in un giornale, Insetto e Corriere della Sera, oggi c'è un'intervista molto forte, interessante e credo anche divulgativa e istruttiva del procuratore nazionale antimafia Roberti, che contestualizza il dato, quindi dice sicuramente fino all'inizio degli anni 2000 c'è stato questo sversamento. Cioè adesso tutto bene, sentirle sembra che prima era tutto male, adesso tutto bene, ma la camorra è sparita improvvisamente. No, non è sparita la camorra, ecco. Purtroppo non è sparita, come sappiamo. La camorra ha deciso in quegli anni di fare questo. E adesso cosa fa la camorra? Oggi sicuramente non abbiamo riscontri, lo si dice anche in termini di indagine antimafia, da alcuni anni non è più interessante, la camorra non ritiene più utile. E qual è il business della camorra adesso? Oggi noi ci dobbiamo preoccupare del danno prodotto al territorio. Naturalmente, questo lo stiamo dicendo. Adesso passiamo a parlare dell'altro aspetto del danno veramente grave, che è quello delle conseguenze sull'acqua, sull'inquinamento dei pozzi privati che sono spesso illegali e dai quali la popolazione attinge acqua per irrigazione, ma anche acqua per le case. Michele Parmieri, direttore generale dell'ambiente del ciclo integrato della Campania, ci dia un voto da 1 a 10 dello stato di salute dell'acqua in Campania. Per gli acquedotti regionali che gestisco io e di cui ho un'approfondita conoscenza, sì, potrei dare sicuramente un 8. Benissimo. I pozzi privati, quando forniscono acqua alle case, sono legali o illegali? I pozzi privati possono essere legali se hanno fatto una procedura di autorizzazione ben precisa. E la maggioranza? La maggioranza penso di no. Ok, quindi la maggioranza è illegale. Senta, l'Espresso dice che hanno analizzato 65 pozzi privati che appunto riforniscono le abitazioni private. Ci sono sostanze inaccettabili per la salute nel 92% dei casi, è vero? Penso proprio di sì, perché la maggior parte delle falde molto superficiali, quelle in cui pescano i pozzi privati, tendenzialmente non sono utilizzabili a scopo alimentare, quindi come acqua da bere. Ecco, e quindi se dicono che hanno rilevato la presenza di diossina nel 14% delle case, di uranio addirittura nell'88% delle case, in livelli superiori alla media, vuol dire che non la meraviglia. Anche se distinguerei tra la diossina e l'uranio, se me lo consente, perché la diossina è sicuramente un prodotto antropico, mentre l'uranio è un prodotto tipico dei terreni vulcanici, che è quindi spesso in valori anche leggermente superiori alla norma da sempre nei terreni vulcanici della Campania. Senta, avete mai fatto dei test per rilevare un'eventuale presenza di uranio nell'acqua? Noi rileviamo tutti i parametri che sono previsti dalla norma e quindi per legge, quindi anche per l'uranio. Tutti sono classificati. Quindi tutti i parametri classificati come obbligatori vengono rilevati. E l'uranio è classificato obbligatorio? Devo essere sincero, non me lo ricordo, perché sono migliaia i parametri che noi verifichiamo. Noi facciamo analisi su varie tipologie giornaliere, settimanali, mensili, su tutte le acque dei nostri acquedotti, dalle sorgenti fino alla distribuzione finale. Ecco, però, sempre dalle analisi fatte dagli americani citate dall'Espresso, pare che l'acqua dei pozzi clandestini purtroppo riesce a entrare nelle condotte urbane. È possibile? È possibile tecnicamente, perché se io utilizzo l'acqua del pozzo nell'acquedotto della casa e non ho messo valvole di non ritorno, se la pressione del pozzo è più alta di quella dell'acquedotto comunale, l'acqua del pozzo può entrare nelle condotte comunali. Però, e quindi puoi andare a contaminare anche l'acqua dell'acquedotto comunale. Senta, l'Espresso però pubblica dei dati che dice che dal 57% dei rubinetti che hanno esaminato gli americani nel centro di Napoli scorre acqua pericolosa in questi rubinetti. È possibile? Guarda, un dato affidabile o no? Perché io posso certificare l'acqua che esce dall'acquedotto regionale lungo la rete di distribuzione. io non sono più in grado di sapere che cosa succede, specialmente quando dalla rete di distribuzione comunale si arriva poi nella rete di distribuzione del privato. E chi lo sa questo? Chi è che controlla ed è in grado di darmi una risposta? Allora, il comune di Napoli, Arin, che ho sentito e che conosco bene perché è anche un nostro grande acquirente di acqua, ha un suo laboratorio e fa veramente migliaia di analisi. Quindi sono abbastanza certo che l'acqua del comune è molto monitorata. Grazie, dottor Palmieri. Grazie a lei, arrivederci. Presidente, bevi l'acqua e poi muore allora. No, credo che sia stato proprio dimostrato il contrario. Ma... ci sono dei problemi che sono legati a indagini che hanno fatto la Isnevi nel 2009, tra l'altro, ma che sono continue indagini sulla qualità dell'acqua. L'acqua è un bene che va tutelato in tutte le maniere. Ci sono pozzi non regolari. Quindi e questo parlato, l'abbiamo detto, Presidente. Stiamo parlando di fenomeni di illegalità, cioè di pozzi Presidente, che non sono utilizzabili né per l'uso irriguo. Quindi il controllo dell'acqua nei rubinetti è un controllo che viene fatto nella rete idrica con migliaia e migliaia di controlli. È evidente che deve essere sempre alto il controllo, quindi è evidente che noi moltiplichiamo e dobbiamo moltiplicare, io dico noi come sistema pubblico, chiaramente questo poi lo fanno le aziende. Presidente, la prego, questo l'abbiamo detto. Eugenio ci scrive: oggi la Camorra si proporrà con le solite aziende colluse di provvedere alle bonifiche col beneplacito dei politici. È un rischio reale? Certo, come non c'è dubbio che è un rischio reale. Il rischio che di possibile infiltrazione di aziende della Camorra è sempre alto nelle aree di Camorra o di mafia. Abbiamo parlato qualche giorno fa proprio col commissario bonifiche, perché sono partiti come sì, noi. Sì, ma voi cosa fate per impedire questo? Cioè, quali sono le verifiche? Abbiamo deciso ieri come si fa? Abbiamo deciso ieri che non basta, secondo noi e secondo la mia opinione, usare solo le normali procedure di gara che prevedono chiaramente procedure di appalto pubblico, e abbiamo chiesto al governo, essendo appalti che vengono fatti dalla struttura commissariale, di mettere dei filtri molto ampi e forti di verifica delle imprese, che non sono solo il certificato antimafia, quindi ipercontrolli. L'unica cosa che non potrà mai capitare, soprattutto in questo momento, è cadere nell'area. Presidente, c'è Mario Seghi che le vuol fare una domanda. Ciao Presidente. Ciao. Senti, direttore, ma tu berresti l'acqua del rubinetto tutti i giorni? È cosa che faccio normalmente. Senza problemi. La gente la pensa diversa, però. Pietrangelo. Buongiorno Presidente, domande veloci. Una è se a lei risulta che questa vicenda si sia allargata oltre la Campania, quindi nel sud Italia in genere. E poi se ci sono queste, sì, vengono sempre evocate queste industrie del nord, se ci sono delle industrie, delle sigle, dei nomi, dei fatti che sono attualmente iscritti nel registro degli indagati. Sì, in tutti i processi sono state individuate moltissime aziende con nomi e cognomi, quindi aziende europee e anche aziende italiane. Ma il problema dello sversamento, che si affidavano in maniera superficiale a chi andava lì a dirgli ci pensiamo noi ai tuoi rifiuti, poi erano aziende collegate alla Camorra, non facevano nessun controllo, e quindi questo è avvenuto. Ma è tutto nel passato, adesso è tutto risolto? No, non è risolto. Presidente, continuiamo, le chiedo scusa, abbiamo la pubblicità, ci continuiamo subito dopo. Mix 24. Lo Stato italiano ci ha ucciso. Noi siamo profondamente indignati dal nulla di questa politica. Nel sono resto le istituzioni. Ritenete che le industrie del nord possano avere mercato se tra i loro costi di produzione dovessero affrontare lo smaltimento dei rifiuti? No, è quello il nemico, la Padania! Ci umiliano, ci disprezzano, ma si servono di noi. E noi glielo permettiamo, perché questi stronzi hanno permesso tutto questo. I cittadini hanno studiato e sanno che ci prendete in giro. Ogni minuto in questa terra viene sversata una tonnellata di rifiuti industriali. Qua la gente muore! Qua la gente muore! Dobbiamo lottare per stare insieme, uniti! Ce l'avete tutti con lo Stato e con i politici, ma chi li ha votati? Ma li abbiamo votati noi, abbiamo sbagliato sempre. Per noi loro sono parte del problema, sono stati parte del problema, lo sono ancora e certamente non possono essere parte della soluzione. Praticamente dovremmo scappare tutti da qua, almeno per i nostri figli. A me non mi interessa, perché che si deve fare? Quando li mangia, prega il Signore che purifica il cibo. Presidente, la protesta, lei lo sa, è sempre più forte, sempre più violenta e anche quasi senza speranza. Ne ha sentiti? Presidente? Pronto? Ecco, ha sentito, la protesta è sempre più violenta, sempre più forte, la gente davvero non ne può più ed è sempre più numerosa. Le risposte? Da guardi, le risposte sono iniziate, io sono orgoglioso di dirlo, dicendo che il problema è molto serio. Nel 2010, quando... Cioè, viene voglia di arrendersi, l'ha sentita la gente, viene voglia di arrendersi. Non bisogna arrendersi, certo che no. Dovremmo dar ragione, scusi, dovremmo arrenderci alla camorra o a chi ha saccheggiato il territorio. Certo che no. Allora, per ora, quindi, non dobbiamo arrenderci, dobbiamo tranquillizzare tutti, che il problema è serio. Sì, ma tranquillizzarli però non negando le informazioni, dando i dettagli delle zone pericolose. Direttore, lo deve chiedere a chi lo ha fatto, non a me. Io ho fatto il contrario. Io le ho messe tutte in rete, dal 2010 quando andavo in cerca e ho trovato da solo, nel silenzio generale anche della stampa, ho chiamato vari direttori dei giornali dicendo la gravità della situazione, nel 2010 per 2 anni sono stato lasciato totalmente solo e ho risolto i problemi, solo dal 2010 questi problemi Presidente, hanno avuto un'accelerazione, quindi io penso e credo che non solo ci sia l'obbligo della speranza. Sentiamo... questi problemi vanno, direttore, sì, no, ma questo l'ho capito, vanno Presidente, risolti, vanno risolti, ma bisogna assumersi anche le responsabilità. Io non dico che è lei in persona, però certamente il sistema della politica è stato colluso ampiamente con questo sistema. Mi scusi un attimo, ci sono i processi, chi per me bisogna essere molto più severi, che non è la denuncia politica. Chi ha sbagliato e chi deve pagare deve essere deve pagare la pena, deve essere appunto arrestato. Mario, quanti arresti ci sono stati? No, ci sono stati tanti arresti e quanti? Tante condanne. Quante? Tantissime sul ciclo dei rifiuti, credo gran parte degli arresti tra camorre e collusioni con la i cosiddetti colletti bianchi. Sì, e condanne quante? Mi dica dei numeri. No, ma non sono i casi di numeri, ma le posso dire tantissimi. I processi portati avanti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine sono stati processi molto importanti e significativi. Non mi dia numeri, Presidente, però io voglio capire esattamente come sono. Le assicuro, non sono numeri, ma tra condanne in primo grado e secondo grado, che ce ne siano centinaia. Senta, non è questo. Io però mi scusi, sì, oggi bisogna reprimere e soprattutto colpire chi ha sbagliato, a partire dalla gente della camorra. Il problema ora è, con serietà, risolvere i problemi. Mario, risolverli, ma anche vedere le facce dei colpevoli, sì, perché sennò i problemi restano dei sogni, le soluzioni. Sì, no, Presidente, gran parte dei processi fatti in questi anni dalla magistratura e forze dell'ordine che hanno investigato sono prevalentemente legati al ciclo dei rifiuti, la parte illegale, chiaramente. Una domanda precisa. Allora, De Magistris è andato alla manifestazione, no, sulla Terra dei Fuochi, eccetera. Condivide o no? Guardi, io sono sempre dell'idea che le istituzioni devono avere le porte aperte, però alle istituzioni è chiesto di risolvere i problemi. E quindi? Condivide o no? Io faccio una mia scelta. La mia scelta è stata quella di dire, io sono al lavoro per risolvere i problemi, condividendo quelle marce. Io sono il primo ad aver detto... Ma De Magistris doveva andarci o no? Direttore, ognuno fa la sua scelta. Io do il mio esempio. Se faccio una scelta diversa... Lei ha scelto un'altra strada, e questo è chiaro. Senta, ma smaltire rifiuti illegalmente è molto più economico che farlo seguendo le procedure. Ci sono incentivi per le aziende che sono virtuose? Noi ne abbiamo gli incentivi anche con leggi regionali, però direttore, il problema qual è? Che smaltirlo illegalmente è sicuramente più conveniente, al di là degli incentivi. Quindi è evidente che c'è un problema di impresa prima di tutto, cioè l'impresa deve andare nell'impianto di trattamento di rifiuti speciali autorizzato, non può andare a sversare o a incendiare il rifiuto industriale. Questa è illegalità e chi fa questo è un criminale, c'è poco da discutere. Ora il tema è la consapevolezza della coscienza civica, sale bene ed è importante che ci sia la partecipazione dei cittadini. Presidente, io le leggo un sms che mi è appena arrivato. Tranquillo Minoli, i napoletani hanno un elevato livello di tolleranza, sopporteranno anche questo, cambieranno bandiera sul balcone, avanti così, un napoletano che è riuscito a fuggire. Beh, è un sentimento fortissimo questo. Continuo a dire che la strada è solo lavorare perché il riscatto dovremmo dare ragione alla camorra, a chi non vuole che non bisogna dare ragione, siamo d'accordo, allora, ovvio. Io che cosa rispondo? La risposta è la partecipazione, la buona politica, fare le cose di fronte anche a problemi molto seri che tu hai di fronte, che tu dici hai ereditato. Per me sarebbe facile dire no, è ben noto che lui ha ereditati, ma questo che vuol dire? Che tu devi metterti a risolvere i problemi, e l'aver fatto una svolta dal 2010 sì, ha dato un esempio, benissimo, un esempio benissimo, importante. Questo è chiaro, però a sentire lei sembra che la camorra ha cambiato interessi, non gli interessa più questo, viene da pensare che gli interesserà fare le bonifiche. B, non, avendo cambiato interessi non si capisce quale sarà il nuovo interesse, questo non è chiaro. Della camorra in della campagna. Della camorra naturalmente poi, in campagna. Il no, presidente Caldoro avrà un'idea. Perché... Direttore, io sto guardando chiaramente e leggo con attenzione le ultime verifiche, rilazioni, perché mi fido della magistratura e delle forze dell'ordine. Vabbè, è il loro mestiere dire che cosa sta facendo la camorra. La camorra, dicono le indagini, che arrivato a un certo periodo, attorno al 2004-2005, non ha ritenuto più conveniente, quindi non ha fatto per degenerosità per il territorio, riteneva non più conveniente, dopo aver saccheggiato per 25 anni quel pezzo di territorio, che continua a dire sono l'1% del territorio della regione, che è particolarmente... Sì, d'accordo, insomma, mi sembra tanto. Dice non è a più convenienza, probabilmente lo sta facendo altrove, perché ritiene altrove più conveniente, perché ci sono oggi meno controlli che in Campania. Cioè gli dice la camorra è andata via dalla Campania perché gli conviene andare altrove. Senta, Presidente... Questa è la verifica e la valutazione che fanno gli inquirenti, sì, e che fanno le forze dell'ordine in relazioni scritte, e tra l'altro anche... Dicono questo. Senta, Presidente, siamo un po'... La camorra poi si configuri, secondo me, oggi ha interessi prevalentemente finanziari, prevalentemente di riciclaggio, prevalentemente di mercato della droga, di tutte le cose che chiaramente una organizzazione... Rendono di più, secondo lei. Senta, Presidente, lei ha ancora 3 anni di mandato davanti. Stiamo in chiusura perché siamo andati un po' oltre. Mi dice sono la metà, direttore, ma comunque... La metà, scusi, quanti sono ancora? Ancora un anno e mezzo. Sì. Un anno e mezzo. Allora, sì, mi dice una cosa e mezza che di sicuro farà di qui alla fine del suo mandato? In questa direzione, quello... no, continuare, mi dica cose che siano concretissime. Le cose concrete, se mi dà un minuto gliele dico. Sì, certo, allora, un minuto, ecco, gliel'ho dato. Dal 2010 quello che abbiamo fatto ci permette di dire quello che faremo, perché se non diciamo che abbiamo iniziato da subito, per quanto riguarda l'ambiente, trovando i fondi, facendo le 4 leggi fondamentali di programmazione che la regione non ha mai avuto, la legge sulle bonifiche, la legge sui rifiuti tossici e nocivi, cioè in questo anno e mezzo? L'abbiamo fatto dal 2010 ad no, oggi. Io sì, ma... Ora, no, ma le cose sono conseguenziali. Sì. Ora abbiamo trovato già dal 2011 i fondi europei, quindi oggi noi dobbiamo aggredire il male. Oggi c'è un'operazione chirurgica da fare, che abbiamo iniziato a fare perché il malato è sulla sala operatoria. Vabbè, e ha già tutti gli elementi. D'accordo. È quello di estirpare il veleno che in quel territorio è stato sversato con azioni di bonifica. Le tecnologie sono tecnologie ormai, diciamo, che il rischio che la camorra... Che noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo, Presidente, dare però... il segnale forte di svolta e di risanamento del territorio. Se non togli quel male in quel pezzo del territorio non sarà mai credibile. Le azioni che sono state messe in campo sono tutte legate a questo obiettivo, e questo è un obiettivo di forza delle istituzioni e dei cittadini, perché solo insieme possiamo vincere questa battaglia. Senta, un'ultima domanda. Massimo da Roma, al telefono. Sì, pronto. Rapido, perché siamo in chiusura, per favore. Allora, l'obiettivo di questi criminali, come di tanti altri criminali, è quello dell'illecito arricchimento. Beh, ovvio. Allora, a questi non importa pagare una multa o fare un mese di carcere. Per questo tipo di criminali, come per tante altre occasioni, la giustizia dovrebbe prevedere la confisca totale dei beni del corruttore e del corrotto. Perfetto, mi sembra molto precisa, Presidente. È d'accordo? Sì, sì, condivido totalmente. Tra l'altro la nuova legislazione va proprio soprattutto sui patrimoni. Mario? No, è così, Caldoro ha anticipato quello che però dovevo dire. Però volevo una risposta su quello che le avevo chiesto, Presidente. Sì. E risulta che al di là della Campania ci sia questo problema dei terreni avvelenati? Direttore, guardi, io non faccio questo di mestiere, però quello che sicuramente leggo nelle indagini è che non è finito il mercato illegale dei rifiuti tossici e nocivi. Si è spostato, lei dice? Probabilmente si è spostato. L'attenzione della malavita e del circuito illegale, che non è solo della malavita, in molti casi è dell'impresa, quindi non è illegale ma non legata alla malavita, o comunque nell'uno e nell'altro caso, quando si fa lo sversamento illegale, perché così si guadagna. Abbiamo 10 secondi. Si guadagna, si cerca il posto dove ci sono meno controlli. Grazie Presidente, la ringrazio. La notizia in 3D anche oggi è stata curata da Sara Tardelli. Torniamo dopo la pubblicità. Mix 24. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le reti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pietrangelo, ci illumini questa canzone? Da Roma in giù, però in realtà in tutto il mondo, in tutto il pianeta, ci sono motivi di lamento e poi c'è una soluzione popolare di una celebre canzone di Domenico Modugno rifatta da Roy Paci. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? L'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Mario, e oggi che cosa bolle in pentola? Allora, sigla. Le primarie del PD, caro Minoli, cari ascoltatori, sapete che non tirano più? Ho letto stamattina che tra gli under 35 non c'è l'interesse, cala notevolmente nonostante lui, Renzi, che fa Renzi. Renzi, cosa fate? Chi è? Hai visto? È stato evocato lui, l'altro lui. E allora? E allora? E allora? Il salamino? I salamini, come tutti gli insaccati, mantengono dentro notizie che magari sono apparse quest'estate. Sul sito della Stampa, il quotidiano di Torino, esce una notizia: un'automobile, vetri oscurati, da Ciampino, prelevando delle persone particolarmente eleganti e importanti, si avvia verso Palazzo Grazioli. L'aereo arrivava da Mosca e quindi sembrava che fosse arrivata una soluzione per il... Ora! Una soluzione per il cavaliere, per il problema dei problemi. Si immaginò che Vladimir Putin, che arriverà lunedì qui a Roma, porti un regalo a Silvio Berlusconi, niente meno che la cittadinanza della Santa Madre Russia, un passaporto diplomatico, così le indiscrezioni si accompagnano in queste ore, un passaporto diplomatico che lo faccia, lo nomini, lo celebri, lo elegga ambasciatore della Santa Madre Russia presso il Vaticano. Immunità. Sulle note diplomatica e in sottofondo perfino le campane del Cremlino e la Santa Patria lo celebra. Bisogna presentare le credenziali, esatto. E le credenziali devono essere accettate. C'è ancora un pezzetto di strada fare. Sempre uomo della provvidenza fu. Se evochi Putin, io evoco lo zar dei tagli, il professor Cottarelli, che dice: al tesoro basterebbe un'auto blu. Il problema è che ce ne sono parecchie, quindi io non credo che alla fine riusciranno a fare questi benedetti tagli di spesa. Non hai fiducia in Cottarelli? Ho fiducia in Cottarelli, non ho fiducia nella burocrazia, che è una specie di Moloch. Più forte di Cottarelli. 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms. Allora, poi Maramau, appunto, sembra Leiar. Ti piacerebbe che fosse Leiar. No, senti, io preferisco meglio passiamo in America. Chi ha ucciso Kennedy? Giovanni, hai studiato a lungo il dossier, come suol dirsi, per questioni professionali. Ne continuiamo a parlare, anche oggi. Ne parleremo anche ancora. C'è un bellissimo articolo su una rivista americana molto importante, di Atlantic, che rievoca il maledetto giorno di Dallas attraverso i ricordi di Fidel Castro, il quale non crede che Oswald abbia fatto tutto da solo. E da un continente all'altro, da Dallas, l'America e Cuba, passiamo all'Afghanistan, è una notizia importante. Ti voglio leggere una cosa. Sì. Molto interessante, di Silvia, che ci scrive: sono un dipendente pubblico, non mi lamento per il blocco degli stipendi, ma mi hanno dimezzato il buono pasto invece di toglierlo ai dirigenti che guadagnano tanto più di me. Mi hanno cambiato il computer a me e a tutto l'ente, mentre quelli che usavamo erano perfetti. Tagliato il buonapasto e cambiati invece i computer. Capisci? Beh, che insomma, la spending review, no? No, parlavi di spending review, Silvia. Ha bisogno di essere fatta un po', in maniera un po' diversa in tutti gli enti. Mm. Ti dicevo, in Afghanistan hanno fatto l'accordo sulla sicurezza, importante perché resteranno truppe americane fino al 2024, praticamente. Allora, i Marines quindi ci staranno ancora, d'altronde. Scusa, ma dov'è la meraviglia? Noi ce l'abbiamo in casa e siamo nel 2014. Stai la guerra zitto. È finita. Fai parlare i giornali, non te. Senti. Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza. La stampa. Il grande Humphrey Bogart, ovviamente. Google è l'editore globale, lo sapete, lancerà 1900 riviste in un nuovo newsreader, è una cosa importante. E infine, ultima bolla prima delle considerazioni finali, Brit Style: gli studenti inglesi bevono meno e studiano di più, vanno più in sala a lettura perché c'è la crisi. E allora resta la musica. Secondo me, sono più virtuosi perché seguono l'esempio di Beppe Severgnini, che sta sempre in Inghilterra. Questo povero Beppe Severgnini, no, Beppe, no. A me sei simpaticissimo, no. Non ci posso. Salviamo il soldato Severgnini dalle grinfie. Hai rovinato i Procolarum, hai capito? Butta fuori. Mi hai messo Severgnini tra i Procolarum. Non si può fare questo. Ma questo Procolarum, questa è arte, senti. Arte, questo è certo. Progressive rock. E vabbè, ma lo vuoi meme? Severgnini lo rende sublime. Senti sotto cosa c'è, senti. Lo devi dedicare alla tua fidanzata. Questo. Beh, col libro sull'amore che pazzo. Ha scritto, naturalmente. Insomma, non sarà difficile. È una lunga giornata, almeno non Procolarum. Siamo alla fine. Evviva. Purtroppo. Io dico purtroppo, la seconda parte della trasmissione Mix 24, la storia sarà dedicata, curata da Marina Milone, a una donna che ha incantato l'America, Jacqueline Kennedy.